Ed eccoci con Gabriele Di Luca per parlare del nuovo spettacolo di Carrozzeria Orfeo, Couscous Clan, che sarà al Teatro Era di Pontedera il 9 e 10 di dicembre. Gabriele, benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, per chi ci ascolta, chiaramente diamo prima qualche riferimento su Carrozzeria Orfeo, ci parli un po' di questa esperienza? È un'esperienza che ormai nel 2018 compie 10 anni, è una compagnia che si occupa di drammaturgia contemporanea, anche già nel nome possiamo ritracciare l'aspetto più artigianale in carrozzeria, e quello la tensione, la volontà, la voglia di sperimentare anche qualcosa di molto poetico, emozionante in Orfeo che si accosta. Ci occupiamo di drammaturgia contemporanea, scriviamo i testi, facciamo le musiche, ognuno col suo ruolo. Naturalmente sono l'autore dei testi, faccio la regia insieme a Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Massimiliano Setti si occupa anche delle musiche. Siamo al nostro 8° spettacolo, questo nuovo Couscous Clan, che ha davanti a sé una bella tournée. Avremo anche delle riprese quest'anno dei precedenti spettacoli, ed eccoci qui, facciamo questo, ci occupiamo di produrre spettacoli e fare formazioni. Senti, Couscous Clan come nasce, come si è sviluppato come progetto? Beh, nasce dalla voglia di lavorare ancora una volta su il tema del fallimento, dell'immaginazione e del disagio. Questa volta ci siamo spostati un pochino, perché l'ultimo spettacolo Animali da Bar eravamo chiusi all'interno di un bar, mentre qui siamo in uno spazio totalmente aperto, una sorta di campo nomadi formato da due roulotte, una macchina abbandonata e semi bruciata, abbandonati anche le roulotte e la macchina, in mezzo a una sorta di deserto quasi post apocalittico. Senti, su quali sono le tematiche su cui vi siete incentrati per questo nuovo lavoro? Allora, tutto il lavoro parla in realtà dell'inizio della guerra, come nasce una guerra, siamo una sorta di futuro prossimo, l'acqua è stata completamente privatizzata, quindi i fiumi, laghi, sorgenti idriche sono sorvegliate da guardie armate, il divario tra poveri e ricchi si è accentuato fino a diventare insopportabile, i ricchi vivono all'interno di queste recinzioni sorvegliate da guardie armate e telecamere di sicurezza, mentre i poveri cercano di sopravvivere in queste sterminate baraccopoli, una sorta di favelas fatte di roulotte un po' disseminate dappertutto nel nostro paese. Oltre a queste baraccopoli c'è la fossa comune degli zingari, che sono stati sterminati, questo viene evocato nello spettacolo nel 2036, quindi un vero e proprio sterminio di massa in vecchio stile, e oltre c'è una terra un po' sconosciuta dove questi ribelli trafficano acque illegali alle spalle del governo. Ora, i nostri personaggi, quattro dei nostri personaggi principali vivono, ed è anche l'unità di luogo dove ci concentriamo, in una di queste baraccopoli, mentre un altro personaggio arriva dall'interno della recinzione, e l'ultimo personaggio, Nina, la ragazza più giovane della storia, arriva proprio dal territorio dei ribelli, e tutte queste umanità confluiscono all'interno di questo campo nomadi, dove in fondo si racconta la storia di un vicinato, perché in una roulotte vivono tre fratelli orfani, un ex prete, presso, nichilista, solo, arrabbiato con la vita, con suo fratello minore, Achille, un sordo muto, e la sorella Olga, una donna che 25 anni prima ha deciso di abortire una bambina, e il senso di colpa ancora oggi la divora, infatti ne desidererebbe tanto un'altra. Allora, a fianco vive Mezzaluna, un musulmano, lui dice si definisce un musulmano moderato, che in realtà è quello che lavora di più, perché di giorno scarica, seppellisce rifiuti tossici per un'associazione criminale, e di sera fa l'ambulante. Ecco, ora, tra queste due roulotte, che sono separate appunto da questa piccola porzione di deserto, inizia una guerra tra vicini di casa, che nella metafora teatrale si trasformerà nella guerra dell'umanità, nella guerra occidente, Medio Oriente. Il petrolio è stato sostituito dall'acqua, e quindi tutta la guerra si combatte per l'acqua. Bene, curiosità, molta curiosità. Senti, a questo punto ci lasci anche tutti i riferimenti web dello spettacolo e della compagnia? Assolutamente, potete trovare tutto su di noi su www.carrozzeriorfeo.it. Tra l'altro troverete sul sito molte news, abbiamo finito di girare quest'estate una grossa produzione di Roma, Casanova Multimedia, il mio primo film, Thanks for Angelina, di cui ho fatto la regia, e molti attori dello spettacolo sono presenti nel film, e il film vi faremo sapere se ci venite a trovare sul sito internet o sulla nostra pagina Facebook di Carrozzeria Orfeo, vi faremo sapere quando sarà l'uscita. e questi sono i due canali principali dove potete seguirci. Allora, ricordiamo le date invece per questo debutto al Teatro Era di Pontedera, 9-10 dicembre. A questo punto, Gabriele, ti dico anche che con Luisa eravamo rimasti d'accordo per marzo, per Thanks for Vaselina, da trasmettere qui in radio a ridosso di una delle prossime repliche, quindi io mi darei con te un appuntamento primaverile. Assolutamente sì, veniamo volentieri, grazie di invitarci sempre a fare queste belle cose, ci saremo. Benissimo, un abbraccio e in bocca al lupo.